Questo martedì 3 aprile la temperatura a Barcellona è buona e pare anche in Italia. Allora, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, l'acconto dell'IMU a giugno si pagherà con l'aliquota base, questo è il titolo di apertura. E sull'IMU si concentrano anche e il pasticcio dell'IMU Repubblica. IMU la prima rata sarà meno cara, La Stampa, IMU si paga con l'aliquota base, Il Messaggero, IMU a giugno l'aliquota base, così Il Secolo XIX a giugno si paga con l'aliquota base. Insomma, è questo il senso di un emendamento che chiarisce tutti i dubbi sulla nuova ICI. Mentre Il Lavoro, spinta per l'accordo, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, licenziano i disoccupati, così invece Il Fatto Quotidiano, per l'Unità, ragazzi fuori gioco. Mentre Il Manifesto, passera sul filo, e il tema è Corrado contro Corrado, cioè ministri divisi, passera e Clini, sui nuovi incentivi per le energie rinnovabili, apre su questo tema Il Manifesto. Libero invece, Monti è impazzito, l'Italia è in recessione ma lui dice la crisi è finita. Il Giornale invece, disoccupati e Spinelli, l'outing del segretario CGIL Camusso. Vabbè, c'è anche chi apre sul calcio, effettivamente mi ha inquietato molto e mi inquieta questa inchiesta sul calcio scommesse. Mi sono venduto, questo è il titolo del Quotidiano Nazionale, su Masiello, giocatore ora dell'Atalanta, ex del Bari, che ha venduto una partita. Per Avvenire, occupazione per i giovani sempre peggio. Ma io voglio partire da notizie, vabbè, dal mondo della casta, queste non possono mancare. Oggi, intanto campeggio ovunque, paginate sulla nostra Irene Pivetti, ieri qua ospite, oggi viene ripresa da paginate e paginate di giornali, sul Giornale, Libero, sul Quotidiano Nazionale, sul Secolo XIX, no? Pivetti, Irene Pivetti che annuncia ricorso contro i tagli, cosa che ha detto qui ieri a 24 mattino, ma... Questa notizia l'ha trovata a pagina 8 del Corriere della Sera. Arrivano due nuovi vitalizi che faranno certo discutere, perché i destinatari sono Dino Frisullo e Cosimo Mele. Non so se vi ricordate, se vi dicono qualcosa, due nomi, due politici di orientamento molto diverso ma con un destino comune, di scandali e inchieste, da ieri accomunati anche dalla notizia che riceveranno il vitalizio dalla Regione Puglia. Cosimo Mele, soldi che gli spettano per aver fatto 5 anni il consigliere comunale, 3.400 euro lordi, fu arrestato da vice sindaco di Carovigno per una questione di tangenti, ma poi, se ricordate, la vicenda ben più nota, da deputato UDC coinvolto in un caso che vide una prostituta che era con lui in un albergo finire in ospedale per un malore che sarebbe stato provocato dall'uso di stupefacenti. Mele risponde con amarezza: abbiamo il marchio, siamo i mostri. Ma io non ho alcuna condanna. Per la vicenda da vice sindaco ho avuto la prescrizione, per la seconda non c'è nulla, non è ancora andata sentenza. Chi mi chiederà scusa? Cosimo Mele dice: chi mi chiederà scusa a questo punto? Sandro Frisullo, invece, ex vicepresidente del PD della Regione Puglia, fu arrestato per associazione a delinquere nel 2010. 5.000 euro netti a vitalizio in arrivo per lui. Guardate, invece io ho letto la pagina 11 di Repubblica, che riguarda i nostri ministri, quindi il nostro governo. Orazio La Rocca, che è il vaticanista, uno dei vaticanisti di Repubblica, scrive e rende noto un sondaggio che sarà lanciato oggi, un'inchiesta vera e propria che sarà lanciata oggi dal sito www.sanfrancesco.org, diretto da padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi. L'inchiesta, titolo dell'inchiesta è questa: a che santi si votano i nostri membri del governo? Volete saperlo? Beh, notizia fondamentale oggi su Repubblica. Da San Francesco a Santa Caterina, ecco a chi si votano premier e ministri. Allora, Vabbè, Riccardi è abbastanza gioco forza, ministro della cooperazione, è fondatore della comunità di Sant'Egidio e tra i promotori dello spirito d'Assisi, e quindi lui prega San Francesco d'Assisi. Ma anche Mario Monti. Mario Monti è molto legato a San Francesco perché ha scritto il Cantico delle Creature, un poetico inno alla vita. E inoltre è il modello ideale San Francesco anche per il ministro Clini dell'Ambiente e Catania delle Politiche Agricole. Questo per la difesa del creato. Personale la devozione di Profumo, ministro dell'Istruzione, ho il nome del poverello e per questo lo prego, Francesco Profumo. Il santo di Corrado Passera invece è Sant'Agostino, uno dei più grandi pensatori dell'umanità. Mentre Di Paola, ministro della difesa, prega Santa Barbara. Terzi, ministro degli esteri, San Luca, evangelista. Ornaghi ai beni culturali, San Lorenzo. Balduzzi alla salute, il servo di Dio Giuseppe Lazzati, futuro beato. Severino alla giustizia, prega la Madonna di Pompei. Cancellieri agli interni, la Vergine Maria. Fornero, San Carlo. Giarda, Santa Caterina da Siena, perché ha scritto che il potere è un prestito di Dio e dunque nessuno ha il diritto di appropriarsene indebitamente. Mentre Sant'Antonio da Padova viene pregato da Antonio Catricalà. Fabrizio Barca, della coesione territoriale, dichiara di non essere credente e non ha santi da pregare. Tutto questo trovate su Repubblica a pagina 11. A che santo vi votate voi, cari ascoltatori? C'è tempo prima della pubblicità. Io quando trovo queste notizie in giro per il mondo le do, perché uno le deve prendere per come sono e fare le proprie riflessioni e pensare a cosa sarebbe successo se fosse accaduto in Italia. Un copione tira l'altro via il presidente ungherese. Pagina 16 di Libero, ma anche sul Secolo XIX, pagina 11, Ungheria, l'addio del presidente accusato di plagio. Si è dimesso dopo aver passato dei giorni terribili, di polemiche terribili, il presidente dell'Ungheria, dopo aver dichiarato: poiché la mia persona è purtroppo diventata sinonimo di divisione, sento che devo abbandonare il mio posto. Ha commesso un reato gravissimo e dopo giorni appunto di accuse, polemiche, dibattiti su di lui, ha detto: non posso più fare politica, è una vergogna incredibile, devo andarmene. Nel 1992 aveva copiato la tesi di laurea ed è stato scoperto. Il ministro dell'Ungheria, Paul Schmidt. 24 mattino. Devo dire che la migliore battuta me l'ha mandata via sms al 349-238-6666 Luca da Velletri, che ci ha scritto sapendo che il presidente Monti è devoto a San Francesco. Ora capisco perché sta facendo di tutto per spogliarci dei nostri averi. Vabbè. Allora, Monti ha detto la crisi è finita. Vabbè, questo si presta anche a ironie, c'è una bella vignetta oggi di Giannelli in prima pagina del Corriere della Sera, così anche il Manifesto a pagina 5, titola "La crisi è finita, spera Monti", per il messaggero "Monti agli investitori asiatici, rilassatevi, la crisi è superata". Vabbè, c'è chi come Libero gli dà del pazzo, dice "Monti è impazzito" in prima pagina, ci è o ci fa, la crisi è finita. Dice: è vero che parlava agli investitori cinesi e quindi bisognava dare un segnale di fiducia, no? Anche in Cina, a chi deve investire poi degli ingenti capitali nel nostro paese, quindi dire: attenzione, la recessione vera è alle spalle. Come detto Giannelli, usando questa frase, c'è Monti che parla ai microfoni, dietro di lui ci sono Alfano, Casini e Bersani, e Monti: il peggio è alle spalle, solo che alle sue spalle ci sono appunto A, B, C, Alfano, Bersani e Casini. Sarà che il peggio alle spalle, certo, se uno legge i giornali non trova dei dati molto confortanti, a cominciare dai dati dell'Istat che il Sole 24 Ore mette a pagina 3, disoccupazione record tra i giovani, a febbraio i senza lavoro a quota 9,3%, Rossella Bocciarelli racconta di come la recessione morde La disoccupazione sale a livelli record anche in Italia, come nella maggior parte dei paesi di Eurolandia, dove in media febbraio è arrivato al 10,8%. Nel nostro paese, secondo l'Istat, un giovane su tre è senza un lavoro e il tasso di disoccupazione a febbraio è salito al 9,3%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a gennaio, di 1,2 punti su base annua. Si tratta del livello più alto dal gennaio 2004, inizio delle serie storiche mensili. E insomma, quindi sarà anche che il peggio alle spalle, però certo la certificazione dell'Istat non è una cosa positiva. Gli under 40 sono soprattutto quelli tagliati fuori dal mercato, anche se all'interno dei vari giornali trovate delle storie che certo parallelamente fanno riflettere. Per esempio ciò che La Stampa pubblica a pagina 3, il paradosso dell'impiego. Ci sono 45.250 offerte senza risposta. Le inserzioni cadono nel nulla. Beh, questo è uno dei paradossi dell'Italia. Appunto si dice non c'è lavoro. Ci sono 45.250 offerte di lavoro segnalato dal Ministero del Lavoro, da Unioncamere, dalla CGA di Mestre, quindi gli artigiani. Di questo mole di offerte di lavoro che cadono nel vuoto, vengono fatte queste inserzioni ma nessuno risponde. Vabbè, c'è anche il caso limite che racconta Stefano Sergi sempre a pagina 3, in Val d'Aosta, dove ci sono dei comuni magari di montagna un po' isolati che non riescono ad arruolare il vigile urbano. Un'offerta magari non da nababbi, 1.500 euro netti di stipendio, contratto a tempo indeterminato, posto pubblico, 36 ore la settimana. Quindi un'offerta non da buttare. Eppure ci sono dei casi come a Champorcher, 1.400 metri, località sciistica a 20 km dall'autostrada, a un quarto d'ora dal celebre forte di Bar, dove il bando per vigile urbano è andato deserto due volte, poi alla fine hanno trovato finalmente un cinquantenne che ha deciso di trasferirsi lì. Però sono i paradossi appunto del mercato del lavoro. A proposito di mercato del lavoro, i giornali raccontano ancora di questa riforma che ormai è alle strette, perché Mario Monti è tornato dal viaggio asiatico e oggi proprio troverà sul tavolo del suo ufficio di presidenza a Palazzo Chigi le novità messe a punto dalla Fornero, da anche il ministro Severino alla giustizia. Sono le novità che raccontano, per esempio, il Corriere della Sera, pagina 3. Cade l'onere della prova a carico del lavoratore nei licenziamenti economici che a suo avviso celerebbero motivi discriminatori o disciplinari. È questo uno degli ultimi ritocchi inseriti nel testo della riforma del mercato del lavoro che il ministro Fornero presenterà oggi a Mario Monti appena rientrato dall'Asia. Dunque, si tratta di una modifica ancora chiesta dal leader della CGIL Camusso pare che sarà inserita. Dunque, cade l'onere della prova a carico del lavoratore nei licenziamenti economici. Chi deciderà? Il giudice. Se il giudice rileva una scelta discriminatoria o disciplinare, è possibile il reintegro. Ecco forse che potrebbe rispuntare questo termine del reintegro, anche se, fa sapere Antonella Baccaro a pagina 3 del Corriere, fino a ieri sera, nella settantina di articoli che compongono il disegno di legge Monti-Fornero, il reintegro non c'era. Ma è su questa parola chiave che si gioca molto della riforma del mercato del lavoro e della trattativa. Come un altro interessante articolo che vi segnalo è di Liana Milella, pagina 3 della Repubblica. Ecco come cambia il processo del lavoro. Il ministro Severino, ministro della giustizia, insieme al sottosegretario che si è occupato, Salvatore Mazzamuto, che si è occupato in particolare di questa vicenda, vuole riformare i processi e quindi riformare il diritto delle cause di lavoro. Diventerà questo rito finora una vecchia locomotiva stanca e sbuffante per la quale servono dai 3 ai 4 anni per ottenere una sentenza di rigetto o di reintegro, diventerà un freccia rossa, step obbligati tra primo, secondo e terzo grado, con 30 o 60 giorni al massimo tra uno e l'altro, per ricorrere e far decollare la nuova fase del dibattimento. In questo caso, visto che oggi è il giorno di Santi, bisogna fare bisogna appellarsi a San Tommaso. Io non vedo finché, non credo finché non vedo. Comunque, questo sarebbe allo studio e questo sarebbe stato preparato dal ministro Severino, una riforma delle sentenze del diritto che si occupa di quella sezione che si occupa di tutte le cause di lavoro per accelerare. Come sarà fatta questa accelerazione? Beh, intanto ogni tribunale avrà il presidente che sarà deputato a decidere che i processi in tema di licenziamento debbano avere uno spazio dedicato. Ogni settimana quei dibattimenti dovranno essere garantiti un numero sicuro e certo di ore in modo da poter essere espletati. Questa è una condizione imprescindibile. Poi ecco il nuovo rito, secondo il ministro Severino. Se oggi il lavoratore ricorre e deve aspettare mesi e anni per conoscere la sua sorte, domani si vedrà garantito un procedimento sommario che spiegano le fonti dei due ministeri, ha preso in prestito come modello l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, nel quale si affronta il capitolo del ricorso al giudice del lavoratore a causa di comportamenti antisindacali messi in atto dal datore di lavoro. Lì si parla di una risposta della giustizia con decreto motivato e immediatamente esecutivo. Dunque la magistratura potrebbe fornire sulla base di questo una decisione immediata di accoglimento o rigetto della causa di lavoro. Insomma, ecco la corsia accelerata. Ripeto, San Tommaso. Quando vedrò, ci crederò. In ogni caso, sul tema del mercato del lavoro c'è anche interessante da segnalare Francesco Verderami in retroscena. Oggi Monti pare che vedrà prima Bersani, perché il Partito Democratico è il più turbolento su questa riforma. Lo vedrà preventivamente, come aveva fatto con Alfano, quando Alfano non aveva fatto saltare, ricordate, il vertice perché si sarebbe dovuto parlare di Rai e giustizia. Beh, Monti vide Alfano privatamente per cercare un preaccordo. Pare che ora voglia fare la stessa cosa con Bersani per cercare di capire se all'interno del Partito Democratico si riescono a smussare le varie aree. Mentre, vabbè, insomma, era ieri a Un Giorno da Pecora, no? Il programma di Radio 2 dove... anche simpaticamente i protagonisti vengono invitati a parlare di cose private. La Camusso, leader della CGIL, ha confessato di aver fumato delle canne quando era al liceo, però poi non sapevo rollare bene, quindi ho smesso, poi non mi ha molto divertito. Apriti cielo, la confessione della Camusso: canne al liceo, poi ho smesso, così su Repubblica. Ovviamente ci sguazzano Libero e il giornale Libero, le canne della Camusso in prima pagina. Il giornale addirittura ci fa il titolo di prima pagina, che è questo: disoccupati e Spinelli, l'outing del segretario CGIL, occupazione giù, caos tasse, ma la Camusso parla di quando si faceva le canne. Vabbè, c'è anche questo aspetto di colore. C'è un aspetto ben più serio sul quale il Sole 24 Ore oggi torna, che è l'annoso problema degli esodati, no? Oggi Nicola Barone e Davide Colombo tornano su questo tema, pagina 6. Vale a dire gli esodati, no? Tutte quelle persone che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi di mobilità o uscita incentivata dall'azienda, che ora, maturando quest'anno i diritti e i requisiti alla pensione, si trovano senza più lavoro né pensione perché sono stati spostati i termini per andare in pensione. Allora, il ministro Fornero ha assicurato entro il 30 giugno, data prevista dalla legge per il varo del decreto interministeriale che attiva la norma di salvaguardia, si troverà una soluzione. Già, ma qual è questa soluzione? Non si è ancora capito quale possa essere questa soluzione. Certo, questo tema degli esodati ha fatto finire nella polemica quello che è già stato ribattezzato dalla rete il sottosegretario Gaffer. Gianfranco Polillo, sottosegretario che tutte le volte in cui parla combina dei pasticci, almeno così sembra. Due giorni fa l'ultimo è andato alla 7 e ha detto a una esodata che protestava: ma lei faccia causa, signora, che se fa causa potrà riottenere il posto di lavoro. Da qui apriti cielo, tutti a pensare: allora gli esodati possono tornare a fare il lavoro in attesa della pensione. Il ministro Fornero ha fatto un piccato comunicato stampa dicendo: se il sottosegretario Polillo ha la soluzione per gli esodati, risolva lui. Sta di fatto che Polillo è uno che va in TV spessissimo, non si fa mancare ospitate a trasmissioni televisive, radiofoniche. Oggi fa ben 3 interviste. Intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, dice: ma che pasticci, al limite io faccio qualche baruffa, ma alla fine ne esco sempre dimostrando di avere ragione. Anche l'ultima è una tempesta in bicchier d'acqua. Io ho difeso per un'ora il ministro Fornero e quando sono uscito dagli studi, sono uscito dagli studi e che succede? Che trovo questo comunicato questo eccentrico comunicato diramato dal Ministero del Lavoro. E quindi continua la polemica. Io comunque vado in TV, il problema è questo, ci metto la faccia, cerco di dimostrare quanto comprensivo e serio sia questo governo. E dice Polillo: sa qual è il fatto? Io vengo da lontano, sono 30 anni che frequento le aule parlamentari, ho fatto un sacco di cose lì dentro, sono addestrato a trovare una soluzione, a dare risposte. Io non riesco a uscirmene con i vedremo, i faremo, i cercheremo. Io capisco prima di tanti dov'è il problema, prima di tutti intuisco come il problema può essere risolto, è stato il mio lavoro per anni. Ma lei definì anche la Fornero una fontana di lacrime. Seguì mazzo di rose, risponde Polillo, e mi ha perdonato. Ne è sicuro? Sicurissimo. Quelle rare volte che ci incontriamo alla Camera mi allarga dei sorrisi così. Sarà vero, lui dice che va tutto d'amore e d'accordo col ministro Fornero. Comunque dice Polillo, sì, lo ammetto, mi piace andare in TV, ma non è vanità. E mi piace andarci perché poi quando esco incontro la gente che mi dice grazie a lei finalmente ci abbiamo capito qualcosa. Insomma, io, mentre Monti è un premier autorevole ma rigido, dotto, mai un filino demagogico, io invece traduco, volgarizzo. Guardi, lo dico senza falsa modestia, uno come me certe volte serve proprio. Questo è il sottosegretario Polillo intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Ma anche il Secolo XIX, volevo solo aiutare, Fornero non mi ha capito, e sul Messaggero, volevo solo tranquillizzare, questa è la frase del giorno. Cari esodati, vi sentite tranquillizzati se siete più o meno 350.000 dal sottosegretario Polillo che ha detto fate causa e verrete reintegrati. Poi forse non è vero, ma volevo tranquillizzare. Allora, è stato condannato Bossi, Roberto Libertà Bossi, figlio di Umberto Bossi, 21 anni, gavetto. Io quando l'ho letto all'inizio ho riso, sorriso, poi non più, poi non riesco più a capire come interpretare la notizia. Gavettoni alla candeggina, condannato il figlio di Bossi. Questo sul Corriere, così come il Secolo. Gavettone di candeggina, condannato Bossi Junior. Il Giornale, candeggina in faccia a un militante di Rifondazione, condannato Bossi Junior. Vicenda del 2010, Roberto Libertà, questo nome di battesimo del figlio 21enne di Bossi, in un clima surriscaldato delle elezioni amministrative in un paese a Gavirate, credo, o giù di lì, ha lanciato un gavettone di candeggina, un attacchino di Rifondazione Comunista, quelli che attaccano i manifesti, colpendolo in faccia. L'uomo è dovuto andare all'ospedale, condannato dal giudice di pace a risarcire con 1.400 euro la vittima. Oggi il Corriere della Sera con Marco Cremonesi racconta di lui. Umberto Bossi diceva ma la politica per ora vuol fare il contadino, studierà agraria. Ora però in realtà nessuno ha più dubbi, si tratta di capire come e quando, ma anche Roberto Libertà scenderà in politica. È prontissimo, a cominciare dai gavettoni. Invece mi ha molto deluso, inquietato. Io non è che bisogna fare la verginella, quando si parlava prima anche col tecnico Peter, anche lui appassionato di calcio, anche se mi ha detto dobbiamo passare al football americano, lui gioca a football americano, ragazzi, mica si scherza. Ma mi ha molto inquietato, pur non facendo la verginella, leggere tutti gli articoli questa mattina sul calcio scommesse, no? L'arresto di Andrea Masiello, giocatore ora dell'Atalanta, ma che si è venduto le partite quando era a Bari per sua stessa missione. Mi ha molto inquietato perché per la prima volta un giocatore arriva a dire sì, ho fatto quell'autogol che ormai tutte le TV passano quotidianamente varie volte nel derby contro il Lecce. Il Bari tra l'altro era già retrocesso. I tifosi del Bari avevano ordinato ai calciatori di perdere perché avevano scommesso sulla sconfitta. Visto che avete fatto un campionato di M, a questo punto ci fate guadagnare dei soldi, hanno detto i giocatori del Bari, i tifosi del Bari ai giocatori. E Masiello ha venduto per 230.000 euro la partita dicendo: sì, ho fatto un autogol. È la prima volta di un calciatore che ammette di fare un autogol apposta per 230.000 euro. Ora potete leggere tutti gli articoli che volete, tuona Platini, bisogna squalificarli a vita, c'è chi può dire il calcio è marcio fino al midollo e questa è solo la punta dell'iceberg, c'è chi dirà no, sono casi isolati. A me ha molto inquietato, tanto che voglio leggere Maurizio Crosetti oggi su Repubblica, la commedia del fango, tra l'abbagliante bellezza di Barcellona-Milan stasera al Camp Nou e il putrido fango delle scommesse, il calcio italiano si scopre sempre al bivio, scisso e disorientato, a due passi dal sogno, a un millimetro dal precipizio. Non si fa in tempo ad aspettare i diamanti di Messi e Ibra, ed ecco che un Masiello qualsiasi confessa di aver segnato un autogol per soldi. Lui, che giocava nel Bari l'anno scorso, si vendette il derby contro il Lecce. Mai un giocatore di pallone era arrivato ad ammettere una cosa del genere. E nella ripetizione seriale di quel filmato c'è tutto il comico e il tragico di una vicenda infinita. Le autoreti sono buffe, ridicole, sempre. Ma questo addirittura è un paradigma. Dentro si scorgono l'avidità e la scemenza, l'impunità e la protervia. Come se l'autore del gesto si sentisse protetto dagli dèi, immune da qualsiasi accusa nei secoli dei secoli. Invece, come un furto di galline, il marcio è venuto fuori. E la confessione di Masiello con i 300.000 euro ancora in bocca spalanca uno scenario inedito. Stasera a Barcellona sarebbe bello dimenticare tutto questo almeno per 90 minuti, ma non si possono chiudere le fogne quando si guarda al cielo. La puzza arriva lo stesso. E così, insomma, è. Trovate tutti i resoconti anche del portiere dell'allora Bari, Gillet, che disse anche a me, a mezza squadra, Fu chiamata dai tifosi con l'ordine perdete. Io dissi di no e il capo dei tifosi mi disse vabbè, a questo punto non sappiamo più dire che ti potrà succedere da oggi. Questo è il portiere del Bari, eh? Chiudo 10 secondi per dire, è un caso, in prima pagina del Corriere, Cristina Parodi dice addio al TG5. Pagina 51, farà coppia con la sorella Benedetta Parodi su La 7. Scuppone del Corriere della Sera. Cristina Parodi va alla 7. Il giornale radio.